noi siamo orgogliosi che la nostra città, con le proprie comunità, associazioni, cittadini, società civile, ricordi forse la più grande tragedia del Mediterraneo, sicuramente la più simbolica rispetto all'impotenza, a volte alla non volontà dei paesi europei occidentali nel capire, nell'accogliere il dramma delle migrazioni. Quella fu una tragedia enorme che va ricordata, in gran parte colpì la popolazione eritrea in fuga da una dittatura. La nostra città ha dedicato un parco importante a Croce Coperta e continuerà a ricordare questi temi, sapendo che sono temi che stanno all'interno del dibattito nostro della quotidianità. Insomma, l'idea di politiche migratorie che funzionino e di accoglienza, l'idea di salvare le persone in mare e l'idea anche di lottare per un mondo giusto. Quello che stiamo vivendo in Palestina è un qualcosa che ci indigna e tutti dovremmo lottare per la giustizia per questo popolo. L'idea di lottare per un mondo giusto è un'idea che ci deve accomunare ogni giorno. L'amministrazione comunale cercherà come sempre di fare la propria parte. Riguardo a questo, la portavoce della Sumud Flottiglia, la portavoce italiana di Lia, ha lanciato un appello, insomma, qualora qualunque imbarcazione fosse colpita, l'invito è di scendere in piazza. Allora, accoglieremo questo invito e saremo promotori di momenti grandi, radicali e pacifisti e pacifici, perché c'è bisogno di radicalità, al tempo stesso c'è bisogno di non violenza per raccogliere il più ampio fronte possibile. In questo senso io credo che la comunità ebraica di Bologna, che è una comunità ebraica molto importante, con la quale facciamo un lavoro importante sul dialogo religioso, lo fa con Rita Monticelli, che è la delega in queste, con il sindaco, io penso che almeno una parola sul governo Netanyahu la possa e la debba dire, perché quello che sta accadendo a Gaza non è veramente più accettabile.